GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ministro della cultura San Giuliano a Trieste ricorda Foibe Esodo. Il governo promuoverà Go 2025 e pensa a un rilancio per Aquileia. A Pordenone Roberto Speranza, ex ministro della salute e segretario di Articolo 1. Contestazione in sala sulla gestione della pandemia. Cambiare metodi di irrigazione in agricoltura, riutilizzare e conservare l'acqua. A Udine il punto di Coldiretti su siccità e risorse idriche. Iniziative anche in regione per la giornata delle vittime delle mafie. A Pordenone studenti impegnati con la Fondazione Caponnetto. Tutta la donata degli alpini di Udine in una app. È già scaricabile sugli smartphone e guiderà le penne nere tra percorsi e luoghi di ritrovo. Calcio, in Serie C Pordenone Triestina pronte allo scatto verso play-off e play-out. Nel basket le sconfitte delle regionali pesano sugli obiettivi di classifica. 7:19 minuti di martedì 21 marzo, buongiorno da Daniele Letti, Gerita Amicoli. Subito il meteo, cielo poco nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 7 gradi e 5 decimi, a Gorizia 5 gradi, a Udine 4, a Pordenone 3 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 4 gradi, a Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 1 grado, a Sappada 5 decimi di grado sotto lo zero, a Tarvisio meno 1 grado, sul Monte Zoncolan 2 gradi positivi, sul Lussari 1 grado, sulla costa a grado 8 gradi, a Lignano 4. Queste invece le previsioni a cura dell'ARPA. Per oggi cielo in genere poco nuvoloso. In pianura nel pomeriggio temperatura sui 20 gradi, mentre sulla costa la brezza manterrà l'aria più fresca e umida. Visita in regione del ministro della cultura Gennaro San Giuliano ieri a Gorizia ad accoglierlo. I protagonisti della corsa con Nova Gorizia verso la capitale europea della cultura. Seconda tappa Trieste, poi Aquileia. In Porto Vecchio a Trieste il ministro della cultura Gennaro San Giuliano è stato per la prima volta nel magazzino 26, il posto dove sono ora custodite le masserizie dei prof guistriani, fiumani e dalmati, un luogo che ha particolarmente apprezzato. Perché la memoria non deve essere qualcosa di astratto, ma deve essere qualcosa di tangibile, che noi dobbiamo essere in grado di toccare, e abbiamo il dovere di coltivare la memoria della tragedia dell'Esodo e delle foibe. Il ministro San Giuliano ha visitato anche Aquileia e la sua basilica. Per la città che fu sede del patriarcato, la richiesta di regione e comune al ministero è il rinnovo anticipato della convenzione e un contributo annuale dello Stato per la fondazione, in modo da dotarla di personale proprio. Tra gli obiettivi, ottenere nuove risorse per potenziare gli scavi, gli stessi che hanno portato alla luce la casa di Tito Macro in anni recenti. Dal ministro sembrano arrivare aperture. Aquileia è un grande sito archeologico. Si tratta di rilanciare la fondazione che gestisce questo sito, di valorizzarlo sotto un profilo turistico e magari di pensare anche a nuovi finanziamenti per, diciamo, accrescere le potenzialità. Il ministro San Giuliano aveva cominciato la giornata tra Gorizia e Nova Gorizia per l'incontro con la sua omologa slovena Stavrečko, un primo faccia a faccia tra di loro per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto Capitale Europea della Cultura 2025. San Giuliano ha assicurato che il governo italiano si impegna a promuovere l'evento. Potrebbe aiutare l'esperienza di Matera 2019, ha convenuto la ministra Vrečko. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Pordenone è arrivato ieri l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, segretario di Articolo 1, a sostenere la candidatura di Massimo Morettuzzo in vista delle regionali del 2 e 3 aprile. Ha partecipato a un dibattito sulla sanità pubblica. È intervenuto a difesa della sanità pubblica Roberto Speranza, ex ministro della Salute e segretario nazionale di Articolo 1, arrivato a Pordenone a sostegno della coalizione di centrosinistra e del candidato presidente alle prossime elezioni regionali Massimo Morettuzzo. Speranza. La sanità è il tema credo più importante per la vita delle persone e la proposta che noi abbiamo messo in campo va esattamente in questa direzione. Il diritto alle cure, il diritto all'assistenza deve essere un diritto fondamentale e non può essere un diritto di pochi, deve essere sempre un diritto di tutti e la nostra piattaforma va esattamente in questa direzione. Tra i temi regionali toccati, le liste d'attesa, le dimissioni volontarie del personale sanitario, la necessità di riaprire il dialogo con medici e infermieri, il contrasto a quella che è stata definita privatizzazione strisciante del sistema sanitario. Ancora Speranza. È una proposta che tende a fare l'occhiolino ai privati, ma l'idea è un'idea che porta a una sanità per pochi. Noi invece vogliamo difendere una sanità per tutti. Curarti deve essere un diritto indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza. L'intervento di Speranza è stato più volte interrotto da un gruppo di contestatori, poi allontanati dalla sala, contrari alla sua gestione durante la pandemia. L'ex ministro ha difeso il suo operato a partire dalla campagna vaccinale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a proposito di campagna elettorale, ieri c'è stato anche il primo confronto in Rai tra i quattro candidati alla presidenza della regione. A due settimane dal voto, i quattro candidati alla presidenza si sfidano davanti alle telecamere della RAI, chiave dell'intervento conclusivo di Alessandro Maran, il senso politico complessivo della corsa in solitaria del Terzo Polo. Noi vogliamo costruire uno spazio alternativo ai populisti, vogliamo costruire la casa dei riformisti. Noi vogliamo sfuggire alla trappola di quanti ci raccontano che tutti i problemi saranno risolti con la decrescita felice, con l'indebitamento, oppure saranno risolti con il sovranismo, con il salvatore della patria. E si tratta di illusioni. Rivendica il lavoro svolto in 5 anni di amministrazione di centrodestra il presidente uscente Massimiliano Fedriga. Io spero che i cittadini abbiano potuto vedere come abbiamo amministrato in questi 5 anni e apprezzare gli sforzi che abbiamo fatto anche in momenti estremamente difficili questa legislatura. Penso che questa amministrazione, insieme a tutta la comunità regionale, abbia saputo dare delle risposte e i numeri sulla crescita, sull'opportunità di lavoro, sull'export, ne sono una testimonianza. Giorgia Tripoli punta invece al voto di chi è deluso dalla politica tradizionale. Beh, noi come Insieme Liberi ci rivolgiamo a quel 60% circa della popolazione che oramai non va più a votare, che oramai è disamorato, se non addirittura odioso nei confronti della politica. C'è una possibilità, con la lista che io rappresento, di un reale cambiamento, perché noi non siamo legati a nessun partito, non siamo legati a nessun interesse e pensiamo di poter veramente portare avanti gli interessi dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Da Massimo Morettuzzo e dal centro-sinistra un appello al voto per il cambiamento. Possiamo decidere di guardare al passato, di guardare a chi nega il cambiamento, a chi nega la crisi climatica, a chi nega la possibilità di costruire un modello di sviluppo diverso, oppure possiamo guardare al futuro. Possiamo decidere di scrivere una nuova pagina del Friuli Venezia Giulia. Credo che si debba scegliere per dare la possibilità a chi decide di far sì che i propri figli possano continuare a vivere in questa terra, di avere davvero un futuro migliore. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Le trasmissioni elettorali organizzate dalla RAI in vista del voto regionale del 2 e 3 aprile proseguono oggi con il terzo gruppo di messaggi autogestiti dei soggetti politici in lizza per il comune di Udine, che andrà in onda in televisione alle 13.15 su Rai 3 e alle 17.05 in radio su Radio 1. Tutte le trasmissioni si possono poi rivedere su internet in una sezione dedicata del nostro sito rainews.it/tgr/fvg. Gli appuntamenti politici della giornata, dai temi del lavoro alle riforme, all'attualità, nel faccia a faccia tra il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, e il presidente uscente della regione, Massimiliano Fedriga, dalle 10, sala delle colonne, in Camera di Commercio a Trieste. Il candidato alla presidenza della regione, Massimo Morettuzzo, sarà invece a Udine alle 9.30 nella sede di Confartigianato Udine 1 per un incontro con i rappresentanti del mondo dell'edilizia. A Trieste, poi, alle 13.30 incontrerà una delegazione del sindacato UIL e alle 15.30 all'Hotel Sonia parteciperà all'iniziativa pubblica La mia salute, la mia sanità, organizzato dal Patto per l'autonomia e adesso Trieste. Di nuovo a Udine alle 18.30 incontrerà una delegazione di Confapi nella sede dell'associazione e a Buttrio alle 20.30 nel Palazzo delle Associazioni in via Cividale 21 sarà presente a un'iniziativa del Partito Democratico. Le imprese della CNA interrogano la politica in vista delle elezioni regionali. Oggi l'associazione ospita Giorgia Tripoli nella sede di Udine in via Verona 28 alle 18. I nostri paesi muoiono, dopo 5 anni persi, idee e soluzioni per la rinascita. È il tema dell'incontro organizzato a Castions di Strada alla Frasca Morachion dalla coalizione di centrosinistra che sostiene il candidato presidente Massimo Morettuzzo a partire dalle 20.30 di stasera. A Monfalcone alle 17.30 nella biblioteca comunale di Via Ceriani, Alleanza Verdi Sinistra propone una riflessione con Mario Agostinelli, presidente dell'associazione Laudato Si e referente del contratto mondiale per l'energia e per il clima, che lo scorso anno presentò un'ipotesi di riconversione per la centrale a carbone basata sul progetto di Civitavecchia approvato dalla comunità locale e dalla Regione Lazio. Open Sinistra FVG organizza un incontro pubblico dal titolo Donna, Vita, Libertà, difendiamo il diritto delle donne iraniane. A Pordenone alle 18 nella Sala Teresina De Gande, la biblioteca di Piazzale 20 Settembre. Disabilità pubblica, criticità e speranze, il titolo dell'incontro organizzato da AIAS Trieste, Associazione per l'Indipendenza, l'Autonomia e la Sicurezza delle Persone con Disabilità, anche in vista delle prossime elezioni, per chiedere maggiore attenzione su queste tematiche. Il Centro Italiano Femminile Provinciale di Udine, in collaborazione con il CIF regionale, organizza un incontro dibattito sul tema Costruire insieme il futuro in Friuli Venezia Giulia, ambiente, lavoro, pace, Europa, candidati alle elezioni regionali a confronto. Alle 17 nella sala Paolo Diacono del Centro Convegni della Diocesi a Udine in via Treppo. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà possibile dare il via a lavori sulla rete idrica delle zone agricole, che consentiranno di risparmiare il 40% dell'acqua che adesso va perduta. Se ne è parlato ieri a Udine in un incontro organizzato da Coldiretti. Cambiare il modo di irrigare, riutilizzare l'acqua pompata dalle idrovore, guardare alle ex cave come volumi di soccorso. A Udine, Coldiretti e i consorzi di bonifica hanno fatto il punto sugli investimenti per recuperare quanta più risorsa idrica possibile. L'anno scorso, nei mesi estivi, nel capoluogo friulano si sono visti 163 mm di pioggia contro una media che era di 500 mm negli anni 60. Rosanna Clocchiatti, presidente dell'Associazione Regionale dei Consorzi di bonifica. E con il nuovo PNRR andremo a fare dei lavori in autunno che andranno a risparmiare il 40% dell'acqua sui canali, quindi tutte le perdite. Chiesta più attenzione nell'accesso al credito e alla terra per gli agricoltori under 35, coloro che più sanno investire in agricoltura di precisione e innovazione. Anna Turato, delegata regionale Giovani Impresa Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Lavorare per venire incontro ai giovani che crescono in agricoltura e quindi hanno anche bisogno di avere delle risposte concrete e soprattutto non possono vedersi magari rubato suolo agricolo per installazione magari di pannelli fotovoltaici, quando invece magari si potrebbe utilizzare i terreni per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura. Da ultimo, sottolineata l'esigenza di coniugare protezioni assicurative contro siccità e calamità alle difese attive. Angela Bortuzzi, presidente di Condifesa FVG. Un'agricoltura che va sempre più verso la sostenibilità, quindi dismettendo determinati principi attivi di fitosanitari, e sempre più verso il biologico, gioco forza con i cambiamenti climatici ci sottoponiamo ad un maggior rischio di malattie, di fitopatie in termine tecnico, e queste vanno prevenute con delle buone pratiche agricole e degli studi maggiori sul settore. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A partire dalle 9 a Trieste, nella Sala Colonne, con ingresso da Riva Mandracchio, Recruiting Day organizzato in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico a favore di 11 aziende dell'area giuliana che cercano complessivamente 150 lavoratori. Nella fase di adesione sono state raccolte oltre 2.000 candidature, tra cui ne sono state selezionate poco meno di un migliaio, che oggi avranno colloqui direttamente con le aziende coinvolte. È stato inaugurato il primo lotto dello scalo ferroviario a servizio della zona industriale udinese ZIU a Cargnacco. Gli interventi logistici complessivi ammontano a 680 milioni di euro a valere sulle missioni 2 e 3 del PNRR. Lo scalo di Udine diventa fondamentale per il collegamento tra il porto di Trieste e il cuore dell'Europa, sia sulla direttrice est-ovest che attraverso il collegamento al valico di Tarvisio. 2 milioni di euro sono stati stanziati dalla regione anche per lo scalo ferroviario di Osoppo. Voltiamo pagina, tante le iniziative anche in Friuli Venezia Giulia per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che ricorre oggi. A Monfalcone alle 17.30 in piazza Cavour l'associazione Libera insieme a scuole, istituzioni e amministrazioni leggerà il lungo elenco delle vittime innocenti in parallelo alla manifestazione nazionale che si tiene a Milano. All'Auditorium Concordia di Pordenone la sezione locale dell'associazione Nazionale Mutilati per Servizio organizza stamattina dalle 9 l'incontro Seminiamo la Memoria con la partecipazione della Fondazione Antonino Caponnetto. Insieme ai ragazzi delle scuole di Pordenone la Fondazione ha tenuto il progetto I Giovani Sentinelle della Legalità. Sentiamo di che si tratta con il responsabile Domenico Bilotta. Un progetto che è nato proprio sul volere di Antonino Caponnetto dopo la morte di Falcone Borsellino, quando cominciò ad andare per le scuole a parlare non solo sulla testimonianza di Falcone Borsellino, ma anche di giustizia e di legalità. Tant'è vero che concludeva i suoi interventi con i giovani esortandoli a dire: ragazzi, state attenti, siate vigili, siate sentinelli di voi stessi. L'avvenire nelle vostre mani, ma attenzione perché ve lo possono scippare. Da lì è nato questo progetto dove coinvolgiamo i ragazzi a livello nazionale, abbiamo coinvolto oltre 130.000 ragazzi, 10.000 ragazzi all'anno. Quello che faremo non è un evento, ma è un percorso formativo su educazione civica e cittadinanza attiva. I ragazzi in questo caso hanno scelto un argomento che gli stava a cuore, lo hanno sviluppato, lo hanno documentato e sarà il secondo appuntamento dove dialogano con la propria amministrazione locale. Il tema che loro hanno scelto è la nostra voce, centri di aggregazione. E questo dice cosa serve la fondazione che si occupa antimafia di queste cose. C'entra perché in realtà il discorso di cittadinanza attiva, costruire gli humus importanti nei cittadini attivi, vuol dire anche stroncare la strada all'illegalità, alla mafia e alle persone che non rispettano le regole. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è un farmaco che negli Stati Uniti e nei paesi del nord sta andando a ruba, è contro il diabete, ma si è scoperto è efficace anche nella cura dell'obesità. In Italia non è ancora possibile usarlo a questo fine, ma i medici lo stanno aspettando. Sentiamo. In Italia più di 25 milioni di persone sono obese o sovrappeso. In età pediatrica, per numero di bambini obesi, siamo secondi solo alla Grecia. Ecco che gli esperti, che da anni si battono per diffondere uno stile di vita sano e divulgare una corretta cultura alimentare, sembrano alzare le braccia di fronte alla prospettiva di un farmaco che aiuti effettivamente il dimagrimento. È il caso dell'antidiabetico semaglutide, che tra i suoi effetti off-label ha quello di aiutare il dimagrimento. Negli Stati Uniti è la nuova cura contro l'obesità. In Europa il farmaco è già stato approvato dall'EMA, è in uso nei paesi del nord Europa e potrebbe a breve venire somministrato ai pazienti obesi italiani. Riccardo Candido, responsabile diabetologia a Sugi. Diabete e obesità sono delle pandemie, quindi abbiamo bisogno di strumenti per combattere queste patologie e quindi ben vengano dei farmaci che sono efficaci nel calo di peso. Il farmaco prodotto in Danimarca ha più domanda che offerta in Italia, è previsto solo per i pazienti diabetici e va a ruba nelle farmacie. C'è carenza sia sul canale distributivo attraverso l'azienda sanitaria, la distribuzione per conto, e anche attraverso il canale distributivo normale. Si tratta di un problema temporaneo e risolvibile con una diversa somministrazione, ma agli esperti abbiamo chiesto perché questo farmaco in effetti fa diminuire di peso. Silvana Kum, dietista a Sugi. Il farmaco dà un effetto di sazietà precoce, di ripienezza gastrica, e questo induce le persone a ridurre l'apporto calorico giornaliero, quindi a favorire il calo di peso. Il rischio qual è di usarlo in maniera impropria? Perché? Il paziente deve essere comunque educato a comprendere quali sono le potenzialità del farmaco sicuramente, ma anche educato ad aspettative corrette. Il connubio ideale sarebbe terapia farmacologica unita proprio ad un'alimentazione sana. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alpini e simpatizzanti che si preparano a venire a Udine per l'adunata nazionale di maggio potranno scaricare un'app che fornisce informazioni utili sui programmi delle manifestazioni, sui luoghi di ritrovo e non solo. La 94esima adunata nazionale degli Alpini in programma Udine dall'11 al 14 maggio sfila già sugli schermi dei telefonini. Infatti attiva un'app che si può già scaricare dagli store alla voce adunata Alpini, realizzata da una società di Rimini in collaborazione con l'ANA per condurre le penne nere, e non solo loro, lungo i percorsi e luoghi di ritrovo della Gran Kermesse, che in quei giorni vedrà più che quintuplicare gli abitanti del capoluogo friulano. Adunata in tasca è l'azzeccato sottotitolo dell'app, che sarà aggiornata man mano che ci si avvicina l'evento. Dettagliata la mappa con i punti di ristoro, quelli del merchandising e delle informazioni sull'ospitalità. E si possono trovare anche i programmi, giorno per giorno, partendo da giovedì 11 maggio, degli appuntamenti ufficiali. Si entra poi nello specifico della sfilata con l'ordine di sfilamento delle rappresentanze delle sezioni, suddivise per settore, orario di partenza e raggruppamento. Informazioni strategiche per le penne nere che si avvicenderanno nella grande parata di domenica, partendo dall'area di ammassamento a ridosso di Piazzale Osopo, con a capo e fine percorso la bandiera di guerra. Nella app anche le cartine con le località precise degli attendamenti e una nutrita serie di informazioni sui luoghi di interesse della città, corredati anche dagli indirizzi degli sponsor, dei locali, dei ristoranti e osterie del club Amici degli Alpini. Udine, Armando Mucchino, TG Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, due grandi del jazz al Teatro Pasolini di Cervignano. Appuntamento stasera alle 20.45 con il triestino Enrico Rava e Fred Hirsch con il loro The Song Is You, disco dell'anno secondo il referendum indetto dalla prestigiosa rivista Musica Jazz, di cui stiamo ascoltando le note. Quando suono con Fred, ha affermato Rava, ho la sensazione di essere trasportato su un tappeto volante, sul quale vai ad esplorare il mondo scegliendo traiettorie e destinazioni sempre nuove. In repertorio, rivisitazioni di famosi standard come Around Midnight di Thelonious Monk e I'm Getting Sentimental Over You di George Bassman, oltre a improvvisazioni e brani composti dai due musicisti. Il Festival di Musica Antica Wunderkammer di Trieste celebra la Giornata Europea della Musica Antica e la Giornata Mondiale della Poesia con uno spettacolo dedicato a Lope de Vega, poeta, scrittore e drammaturgo spagnolo, vissuto tra 1562 e 1632, che fonde le poesie di Lope e le musiche di quel periodo in scena al Teatro Miela alle 20.30. Torna a Trieste il grande balletto con Romeo and Juliet nella produzione della SNG Opera in Ballet Lubiana, con la coreografia del maestro Renato Zanella, caposaldo della grande danza europea da decenni. Questa sera al Verdi di Trieste alle 20.30, in replica fino a domenica 26. Gele Dix a teatro con uno spettacolo ispirato ai racconti di Dino Buzzati, La corsa dietro il vento. L'atto unico sarà in scena questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 20.45, poi per altre quattro serate nei teatri del circuito Erta, Palmanova, Codroipo, Artegna e Tolmezzo. Al Teatro Pasolini rivive la commedia dell'arte con le sue maschere, i giochi comici e le sue invenzioni sceniche. Arlecchino, muto per spavento, ispirato al canovaccio di Luigi Riccoboni, alle 20.45 per la stagione del teatro di danza a cura del CSS Teatro Stabile d'Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Dedica sceglie il cinema per celebrare il bestseller di Maylis de Kerangal, Riparare i viventi, alle 20.45 a Pordenone, a Cinema Zero, serata speciale con il film che ha per protagonista Emmanuel Seigné. Intervengono de Kerangal con il giornalista e scrittore Paolo Di Paolo, conduttore su Rai Radio 3 del programma La Lingua Batte. Oggi primo appuntamento universitario per la autrice per il festival, la prima delle conversazioni con De Kerangal si terrà nell'Università degli Studi di Udine alle 10.30 a Palazzo Antonini, condotta da Alessandra Ferraro, docente di letteratura francese e letterature francofone. La comunità croata di Trieste organizza da oggi al prossimo 29 aprile un ciclo di 4 incontri aperti al pubblico su poeti moderni e contemporanei croati, letture e riflessioni. Oggi è la giornata mondiale della poesia, alle 11 Caffè San Marco, la presentazione del ciclo. Nell'occasione Mladen Machiedo terrà la prolusione da Montale a Pasolini, reminiscenze zagrebesi. È intitolato I professionisti della cultura al lavoro, archivi, biblioteche, musei in Friuli, Venezia, Giulia e in Italia, il libro che sarà presentato a Udine alle 16.30 a Palazzo Florio, frutto della collaborazione fra il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università e il Comitato Regionale MAB, Musei, Archivi, Biblioteche, raccoglie gli atti di un ciclo di incontri online in piena pandemia tra studenti e professionisti del mondo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. E alla sezione CAI di Trieste 30 ottobre in via Battisti sarà presentato il libro I miei trekking nel mondo del milanese Daniele Tonani, un manuale di viaggio fatto di racconti personali autentici e coinvolgenti dei territori visitati nel corso di oltre 20 anni. Inizio alle ore 20. A Trieste alle 17 all'Antico Caffè San Marco Francesca Capriglione presenta il suo libro L'alchimia del cuore. Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze sui Balcani occidentali a Trieste. Alle 17.30 nella sede dell'INCE di via Genova si parlerà di Albania e Macedonia del nord tra UE, USA, NATO e Turchia. E a Trieste alle 19 al Cinema Ariston, secondo appuntamento con l'omaggio a Franco Giraldi, alla vigilia della capitale europea della cultura Go 2025, saranno proiettate ad ingresso libero Un anno di scuola e il cortometraggio Il Carso, l'introduzione dei film affidata ad Alessandro Ciuc, giornalista e critico cinematografico, autore del volume La trilogia istriana nel cinema di Franco Giraldi. Alle 19.30 al visionario di Udine la proiezione della frontiera in apertura ad Doc per 3, Franco Giraldi di Luciano De Giusti, introduzione a cura di Paolo D'Andrea. Siamo ora alla pagina sportiva con il calcio. La Serie A si ferma per gli impegni delle nazionali, mentre inizia la fase cruciale del campionato di Serie C. 5 giornate, banalmente, nel calcio delle motivazioni, 5 finali. Pordenone e Triestina pronte o quasi allo scatto che porta a play-off e play-out. Il pesante KO dei neroverdi a Novara, la prima sconfitta per Mirko Stefani in panchina, incide sul sogno promozione diretta. La vittoria della Feralpi Salò contro il Mantova porta il distacco dalla vetta a 6 punti per il Pordenone, che ora punta al secondo posto della Pro Sesto, distante 2 punti. Significherebbe entrare nei play-off direttamente dai quarti di finale, altrimenti per le terze in classifica si comincia un turno prima, per le quarte c'è un ulteriore turno eliminatorio e per le squadre dal quinto al decimo posto una prima fase precedente a tutto. Per il Pordenone, per rialzarsi subito e graffiare il secondo posto, c'è la sfida di lunedì prossimo proprio con la Pro Sesto in casa. La Triestina invece, dopo 3 risultati positivi, l'ultimo il pari con il Vicenza, può di nuovo sognare la salvezza ma attraverso i play-out. Alabardati ora più 4 sulla retrocessione diretta all'ultimo posto. Terz'ultimo l'Albino Leffe con un punto di vantaggio sulla Triestina, poi il Mantova a più 2 e il San Giuliano distante 5 punti. Per giocare i play-out la squadra di Gentilini non deve avere più di 8 punti di distacco dalla sua avversaria nello spareggio, la quint'ultima se gli Alabardati dovessero arrivare penultimi. L'altra sfida si giocherà fra terz'ultima e quart'ultima, gara di andata e ritorno. In caso di parità si guarda alla differenza reti, poi al posizionamento in campionato, tappa fondamentale per la Triestina domenica prossima a Lecco. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora il basket. Manca poco più di un mese alla fine dei campionati e le sconfitte delle squadre regionali pesano sugli obiettivi di classifica. Marco Legovic avrà tirato un sospiro di sollievo. Le sconfitte di Napoli, ma soprattutto quelle all'ultimo secondo di Verona e Scafatti, danno un po' di ossigeno a una Trieste in difficoltà dopo il brutto scivolone di sabato in casa contro Reggio Emilia. Tra 8 giornate ne scenderanno 2. La lotta coinvolge le 4 all'ultimo posto, Brescia 2 punti più sopra e biancorossi a quota 18, quasi salve quelle a 20. Il calendario è duro, ma sabato si può ipotecare la permanenza nella massima serie nella trasferta di Scafatti, squadra che non vince da gennaio, all'andata in un brutto match. Trieste vinse di 5. Con 2 punti l'obiettivo l'obiettivo stagionale sarebbe vicino. Importante inserire Terry, arrivato ormai da 2 mesi, e l'ultimo acquisto Hudson. Il lungo preoccupa perché gioca fuori ruolo e non è sembrato compatibile con gli altri. Il secondo ha mostrato un'attitudine discutibile negli 8 minuti che Legovic gli ha concesso. In A2 manca invece una giornata alla fine della stagione regolare. Cividale aveva riacciuffato all'ultimo San Severo, ma alla fine ha perso e ha mancato l'aggancio all'Apu, che a Forlì con tante assenze è stata sconfitta, ma perlomeno ha giocato alla pari per 30 minuti. Quarto e quinto posto del girone sono più o meno garantiti. Significa che nella fase a orologio incroceranno le squadre classificate dal quarto al sesto posto dell'altro gruppo. Le prime due di questo ulteriore raggruppamento disputeranno il primo turno dei play-off con il fattore campo a favore. Obiettivo per le friulane: recuperare gli infortunati e testare le rotazioni per i play-off di maggio. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7.47 e 38 secondi è il momento della nostra rassegna stampa. La Triestina della Vela fa 100 anni è la fotonotizia che apre l'edizione di oggi del Piccolo di Trieste. Sotto, l'altro titolo principale è su Porto Piccolo, corsa contro il tempo per il via alla cassa integrazione, fissato per domani il tavolo al Ministero del Lavoro. Notizia questa che apre anche le pagine della cronaca cittadina. Ci sono poi 2 richiami di politica, il primo sulle regionali, candidati divisi su rotta balcanica e telecamere per i migranti, il secondo sulla visita in regione del ministro Sangiuliano. Infine, in basso, la cultura con un'intervista a Nico Pitrello della Sissa, la scienza è il perno della democrazia. Operai, tecnici e baristi si cercano 1.248 addetti, è il titolo di apertura del Messaggero Veneto. 10 aziende friulane in difficoltà con il personale si rivolgono ai centri per l'impiego. Nella fotonotizia, un angolo di Olanda rive d'Arcano, una collina ricoperta da 30.000 tulipani curati e coltivati da Gabriella Aemen, olandese da 25 anni in Friuli. Di spalla le ferrovie, ascensori in stazione pronti entro Pasqua. RFI, si legge nella cronaca cittadina, risponde a una sollecitazione del sindaco. Il cappello alpino sui bagni chimici, scoppia la polemica per una prova pubblicitaria finita online che fa arrabbiare l'ANA. Anche un macete tra i 200 kg di rifiuti raccolti domenica a Butrio dai volontari in taglio basso via al restauro del pozzo di fine 400 di Piazza San Giacomo a Udine. Servono 900 lavoratori stranieri. Il Friuli manda a Roma la lista degli addetti richiesti e l'apertura del Gazzettino nella fotonotizia. L'aumento dei prezzi frutta e verdura sono ora un lusso. Di spalla, domenica prossima, la protesta a Paderno contro il forno crematorio e furti a Lignano e Reana. Anche qui il macete trovato a Butrio. In basso, calcio e basket. Ad aprire il Piccolo, edizione di Gorizia, è un titolo sulla visita del ministro Sangiuliano. Go 2025, modello di convivenza. Al centro, l'altro titolo principale è sull'ospedale di Monfalcone, un parcheggio interrato al San Polo da 150 posti auto. Un richiamo alla cronaca. Via Bras sembra un autodromo, limite dei 40 km orari, chiede una lettera. Un altro richiamo è invece sulla cultura, fiera dell'editoria indipendente, ponte tra est e ovest. Le pagine di cronaca di Gorizia aprono invece sui lavori pubblici. 8 strade riasfaltate con i soldi della bretella, spostamento di risorse dopo il no al progetto del collegamento per l'ospedale. Sul Gazzettino di Pordenone, a differenza del dorso Friuli, la cronaca: violenza, 4 anni per le angherie alla moglie incinta. Di spalla, urla insulti, Novax contestano Speranza e a Fontana Fredda il genio delle norme corteggiato dalle aziende. Uno studente lavoratore di 22 anni, Marco Cimolai, e ha costruito una mappa per districarsi tra leggi e articoli. In taglio basso, il ritrovamento di un insediamento romano a Cordova. Vado, ne abbiamo parlato ieri, e il calcio, niente riposo per il Ramarri dopo la sconfitta, il provvedimento questo della società. Sul Messaggero Veneto, nella fotonotizia, un incidente avvenuto sulla 28, auto sventrata dal guardrail, la conducente si salva, è successo tra Godega e Portogruaro a una 72enne di Brugnera. Accanto Electrolux, dopo i tagli punta a realizzare un utile del 6%, sotto anche qui un immagine dell'insediamento romano emerso dagli scavi a Cordovado. Sotto Cordenonsi, il furto di un ciclomotore rubato 2 volte, e a Sacile calcinacci cadono su un banco della scuola media, verifiche tecniche in 3 aule. Infine, in taglio basso, 400 scolari in meno verso il ritorno delle pluriclassi. un premio per cercare i nuovi talenti della musica d'autore italiana e internazionale. In omaggio all'arte e alla scrittura musicale di Gino Santercole, compositore delle più importanti canzoni del clan Celentano, oltre che cantante in prima persona e attore cinematografico, la moglie Melu Santercole e il produttore e autore Alberto Zeppieri hanno dato vita all'associazione culturale no profit Premio Santercole. È stato aperto il bando per partecipare alla prima edizione del Talent, la cui finale si terrà a Roma a giugno. Ci si può iscrivere fino al 31 maggio attraverso il sito dedicato all'iniziativa. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Voeof Evelyn D parlerà di funghi e delle problematiche legate alla loro conservazione. Le intossicazioni non sempre sono dovute infatti al consumo di funghi tossici, spesso dipendono dal consumo di funghi commestibili ma non trattati nella maniera corretta. A seguire alle 11.20 il settimanale scientifico Radar. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale. In regia Eugenio Giuffrida e Giampaolo Zucchi. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Da Daniele Lettige e Rita Micoli grazie per l'ascolto. L'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.